un problema conformativo, cioè un eccesso di cartilagine, non è certo il cerotto. Sono tornato, ero uscito un attimo. L'acqua dell'oceano usano le mamme. Ecco, l'acqua se è pacifica meglio dell'Atlantico. È una battuta. L'avevamo capita, dai. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Odio i lunedì. Oggi iniziamo la settimana dando i numeri, numeri però che possono aiutarci a iniziare bene la settimana e a proseguirla in forma. Sono i numeri di una formula semplice salutare perché ci indica in modo molto chiaro la strada per mantenere efficiente il nostro sistema immunitario, che dietro le quinte lavora ogni giorno instancabilmente per difenderci dall'aggressione di virus, batteri, funghi e parassiti. Eccola qua, segnatevela: 0, 5, 30. Si impara in un attimo, poi per metterla in pratica ci vuole un po' di impegno e di tempo, ma conviene provarci perché le ricerche ci dicono che gli sforzi saranno sempre ricompensati. Allora, 0, 5, 30. Sapete a che cosa corrispondono questi numeri? E volendo aggiungerne un altro, quale scegliereste e perché? 800 24 00 24. Iniziate subito a scriverci o a chiamarci per rispondere al nostro quizzettone. Ma potete usare lo stesso numero anche per iscrivervi a questo corso di potenziamento, chiamiamolo così, del sistema immunitario. I nostri allenatori di oggi saranno il dottor Carlo Gargiulo, che conoscete benissimo, medico di famiglia, e il dottor Luca Avoledo, naturopata, che è uno dei pilastri del nostro Daily Lab. Allora, chiamate, rispondete al quizzettone e restate con noi. Allora, mentre tu li distrai con questi tra virgolette giochi di società, io li faccio un po' arrabbiare i nostri ascoltatori oggi. Purtroppo devo dare alcune delle ultime cattive notizie, speriamo per il 2014. Parleremo di numeri anche nella seconda parte del programma. Ne diamo subito due: 5 e 15, che riguardano le partite IVA. Presentare entro il 31 dicembre la dichiarazione di inizio attività nell'attuale regime dei minimi garantisce un prelievo fiscale abbastanza contenuto, l'imposta sostitutiva al 5%, invece che al 15, visto che con il nuovo anno aumenterà, raggiungendo appunto questa percentuale. Avete già sentito parlare di questa novità? Siete partite IVA nel regime dei minimi, quindi contribuenti minimi? Cosa pensate di fare? Cosa pensate che potrà cambiare da gennaio per la vostra attività? Cominciate a ragionarci e poi ce lo racconterete all'800 24 00 24. 3 per 5, 25, 6 per 3, 33, 2 per 8, 48, 3 per 9, 29, 6 più 2. E noi riprendiamo ad allenarci, a dare i numeri. 0530, non li abbiamo dati a caso, dietro ogni numero c'è una mole di dati a conferma, la formula che, come abbiamo anticipato, aiuta il nostro sistema immunitario a difendersi dagli attacchi di virus e batteri. Avete risposto al nostro quizzettone? Sicuramente ha risposto in modo corretto l'ascoltatore che ha subito mandato un messaggio, sì. Deborah, al 349-238-6666, non si firma, no, però noi leggiamo, sì. Zero fumo, sì. 5 porzioni di frutta e verdura, 30 minuti di attività fisica al giorno. Anche Giuseppe alla mail ci ha scritto la medesima risposta, lui si firma e quindi lo diciamo. Allora, Giuseppe e il nostro ascoltatore al 349-238-6666 riceveranno a casa un libro di Cuore e Denari, ma vediamo se hanno risposto correttamente. Certo. E lo chiediamo subito al dottor Carlo Gargiulo, che è in linea con noi. Intanto buongiorno dottore, benvenuto. Buongiorno Nicoletta, buongiorno Deborah. Buongiorno. sicuro te lo dice sempre. Non mi dica, no, io sono un po' come Jessica Rabbit, non è colpa mia che mi disegnano così. Ho capito, perché anche a me dicono sempre che do brutte notizie comunque. Allora, no, questa volta invece le notizie le diamo buone. Zero sigarette, sì, assolutamente. Il fumo è proprio da evitare totalmente, non possiamo giustificarlo in nessun modo, quindi è la prima cosa da fare. Perché? Perché in realtà il fumo di sigaretta non fa altro che aumentare l'ossidazione delle nostre cellule, insomma è come se noi facessimo arrugginire sempre di più le nostre cellule, non è una buona cosa, perché nelle cellule c'è tutta la nostra vita, soprattutto c'è il nostro sistema immunitario, visto che parliamo di questo, e se non lo facciamo muovere velocemente per arrivare dove serve, rischiamo infezioni, rischiamo la malattia legata ad infezione. 5 porzioni di frutta e verdura, perfetto, perché in realtà questo è l'esatto opposto della sigaretta, cioè la frutta e la verdura aiutano a pulire, sono antiossidanti, quindi evitano che si formi quella ruggine di cui dicevamo prima, per cui abbiamo delle cellule del sistema immunitario scattanti, pronte ad intervenire. Gli ascoltatori un po' più anziani come me si ricorderanno un cartone animato di Walt Disney strepitoso in cui queste cellule del sistema immunitario, soldatini, correvano a combattere i batteri. Ecco, se noi mangiamo frutta e verdura riusciamo a dare ai nostri soldatini le armi giuste per combattere virus e batteri. Attività fisica, 30 minuti. Qua sul sistema immunitario forse un pochino meno è l'effetto, perché in realtà tenere il nostro fisico in esercizio serve di più per migliorare la circolazione, il cuore e quindi far lavorare meglio altre parti del nostro corpo. Però non dimentichiamoci che il sistema immunitario viaggia attraverso il sistema circolatorio, quindi se il sangue arriva bene dove deve arrivare, perché le arterie sono libere, sono elastiche, ecco che migliora anche il sistema immunitario e il sistema di difesa. Un'accortezza: se facciamo attività fisica all'aperto in queste giornate un po' più fredde, copriamo la bocca e respiriamo col naso, perché altrimenti vanifichiamo l'efficacia dell'attività fisica stessa. Benissimo, quindi promuoviamo questa formula, vi chiediamo anche se avete un numero da aggiungere, invece che tre numeri ne volete dare quattro, aspettiamo naturalmente i vostri consigli all'800 24 00 24, vogliamo anche sapere se riuscite a rispettare questa formula in toto o solo in parte, sentiamoci al nostro numero verde, ma se avete qualche difficoltà non temete, perché con i consigli del dottor Luca Voledo seguire e applicare questa formula direi sarà un gioco da ragazzi, il nostro sistema immunitario ci ringrazierà. Intanto io ringrazio il dottor Voledo per essere qui con noi. Grazie a voi, buongiorno. Benvenuto. Sì, giusto, possiamo acquisire delle nuove abitudini più salutari e migliorare alcuni aspetti del nostro stile di vita senza perdere il sorriso né rinunciare al piacere del cibo. Dottora Voledo, intanto ci scrive subito Marcello e dice: se mangio 10 frutte e verdure posso fumare? Ci scrive. Compensa. Non compensa. Allora, d'altra parte, questa lo sappiamo, è una stagione un po' impegnativa per il nostro sistema immunitario, che è chiamato a fare gli straordinari. I virus simili influenzali hanno già colpito la vera influenza, però arriverà come ogni anno più o meno intorno alle vacanze di Natale, ma qualcosa si può fare, ad esempio riprendendo la nostra formula della salute, mangiare frutta e verdura, dando magari la precedenza e la preferenza ad alcuni tipi di verdure. Di recente è stato scoperto, ad esempio, che una classe di composti presenti in certi vegetali, cavoli, attiva un recettore con un ruolo molto importante nel maturare le difese del tratto gastrointestinale. Anche le erbe, però, di cui parleremo nel corso della trasmissione, hanno un'azione protettiva. D'altronde sono da sempre fonti di validi principi attivi. La ricerca, lo sappiamo, anche in questo campo continua ad indagare. Quindi, prima mossa, cerchiamo di capire quali sono qual è il tipo di frutta e di verdura da invitare, no, con più frequenza sulle nostre tavole, sempre rispettando però la regola della varietà, non sempre solo arance, non sempre solo mele o pere, ma alternarle un po'. Ma, dottora giustissimo, Voledo? Giustissimo, tutto molto giusto, il numero di porzioni, alcuni specifici alimenti, in particolare appartenenti al regno vegetale, hanno delle proprietà validate dalla ricerca scientifica, come appunto si diceva i cavoli, ma anche tutte le crucifere, si diceva una volta, il termine più corretto è brassicace, quindi cavoli, cavolfiori, broccoli, persino la rucola, contengono delle sostanze utili per stimolare il sistema immunitario, non solo nei confronti di virus, batteri, funghi, eccetera, ma per persino delle cellule tumorali. Si è visto che il sulforafano, una costanza contenuta in queste verdure, aiuta a difenderci da alcuni tipi di cancro, dallo stomaco, la vescica, eccetera, eccetera. Quindi cavoli, broccoli, che una volta erano verdure povere, consumate con generosità almeno 3-4 volte alla settimana. Esistono anche altre sostanze alimentari utili, ve ne dico qualcuna magari più nota, qualcuna meno, come l'aglio. Ecco, il famoso aglio. Aglio, sapevo che aspettavate. L'aglio non però è guardi che ci si bacia sotto il vischio. Ecco, non è l'ideale per baciarsi sotto ecco, il vischio. Magari un paio di giorni prima, consumiamolo. Però siccome tanti credono che sia una leggenda, invece è vero, hanno fatto proprio degli studi, consumare due fese d'aglio, due spicchi d'aglio per 15 giorni, e si è visto che ha ridotto di 2/3 in un gruppo di studio l'incidenza del raffreddore. Due spicchi d'aglio però insomma al giorno, al giorno crudi per 15 giorni ben masticati. A che ora? In un'ora che non che sia compatibile con meno gli impegni possibile. Sociali. E invece vi dico un altro alimento che è spesso come dire non si associa facilmente al potenziamento del sistema immunitario: i frutti di mare, che magari appunto se qualche anche un po' afrodisiaci, appunto stavo pensando, se c'è qualche spasimante che mi invita a mangiare le ostriche, dite assolutamente di sì, soprattutto in inverno, perché spaghetti allo scoglio, ostriche, come se aragoste, ma anche cozze, quindi più popolari, contengono zinco e selenio, due minerali fondamentali per il sistema immunitario. Quindi dottor Gargiulo, tra i due, aglio o frutti di mare, eh? Che dice lei? Dottor Gargiulo? Il mare, ovviamente. Pronto? Il mare, sì. Eccomi, frutti di mare sicuramente, ma per l'aglio invece è verissima questa teoria, anche perché mangiare due spicchi d'aglio allontana tutti gli altri, cioè tutti quelli che potrebbero trasmetterci il raffreddore. E torniamo, alla domandona classica, perché tutte le volte che parliamo con Deborah di porzioni di frutta e verdura arriva la domanda, esatto. E infatti anche Stefano al 349-238-6666 dice: ma cos'è una porzione? Una mela? Un chilo di mele? Dottor Avoledo, porzioni per porzioni si intende? Facciamo una media di 80 grammi circa, quindi dipende dal tipo di frutta, 2-3 albicocche piccole, una mela, in buon senso qua ovviamente la fa, deve diventare la nostra bussola, un grappolo d'uva, eccetera, eccetera. Quindi. Dottor Gargiulo, però lo sappiamo, a mettere in difficoltà il nostro sistema immunitario non sono solo virus e batteri, ma anche la mancanza di sonno, e ce lo stanno segnalando i nostri ascoltatori. Per questo la formula dovrebbe anche comprendere un altro numero, 8, che sta per le ore di sonno raccomandate. Questo però non significa che chi non riposa per 8 ore si ammala, ma è importante ricordare che anche il riposo, una buona qualità del sonno, ha un ruolo prezioso per il nostro sistema immunitario. Certamente, sicuramente. Diciamo che quel numero 8 è un numero variabile, perché individualmente ognuno di noi ha le sue ore di sonno, ma mediamente fra le 6 e le 8 ore è quello che dovremmo dormire tutti quanti. Soprattutto preziose le ore che dormiamo, cioè dormire la notte fra la mezzanotte e le 4 della mattina è il momento migliore, perché è il sonno migliore per il nostro organismo, quello che più ci aiuta a recuperare tutto quello che abbiamo consumato nell'arco della giornata. Quindi non cercate, andando a letto tardi, di recuperare la mattina dormendo fino a tardi, cercate di recuperare magari la sera dopo andando a letto un pochino prima, e quindi riportando quella fascia oraria meravigliosa che è quella che va fra la mezzanotte e le 4, le 5 della mattina. E diamo subito la parola ai nostri ascoltatori, anzi alle nostre ascoltatrici. Esatto, inaugura le telefonate di questa settimana Linda dalla provincia di Latina. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, io soffro di herpes labialis e mi hanno detto che ho le difese basse e che non ci sono cure. Allora, prima la facevo crescere, mi venivano dei buboni immensi, poi sono una decina d'anni che ho cominciato a curarlo con lo Zovirax, ogni 4 ore lo Zovirax. Però che cosa è successo? Che immediatamente, dopo 10 giorni esatti, mi viene la dermatite post-herpetica, e quindi io sto dei mesi con l'herpes e la dermatite, perché poi finisce la dermatite e mi ritorna l'herpes. Dopo che c'è l'herpes ritorna la dermatite. L'unica cosa che ho provato, che sembra che un pochino migliori le cose, sono degli integratori che sto prendendo, Immunotop, 2 volte l'anno, a primavera e in autunno. Però io, come mi stanco o come mi agita, eccolo lì, si viene. Sì. Allora, dottor Gargiulo, è vero, l'herpes una volta che ci sceglie non se ne va. questo, diciamo che è si affeziona, vero. Ecco, sonnecchia, si poi si risveglia. È un virus che è neurotropo, come diciamo noi, cioè che si localizza nelle terminazioni nervose e che da lì può dare, poi ritornare in avanti e farsi vivo. L'herpes labiale recidivante, così frequente come questo della signora, meriterebbe forse anche una terapia sistemica. Lei usa già la Aciclovir, di cui ci ha detto il nome. Questo Aciclovir, che lei usa sicuramente in crema sulla lesione, potrebbe essere utilizzato per via generale, almeno per fare una cura una volta ogni tanto, e questo ridurrebbe il numero delle recidive, per cui questa potrebbe essere già una buona cosa. Ottimo l'idea di stimolare le difese immunitarie, qualunque modo possibile, e poi magari anche un controllo delle analisi del sangue, ma l'avrà già fatto, per vedere che non ci sia un'anemia che potrebbe giustificare questo herpes recidivante. Dottor Avoledo, ai suoi pazienti che le chiedono un aiuto, soprattutto quando per un calo delle difese immunitarie si trovano a confrontarsi con l'herpes, che è doloroso e fastidioso, lei che cosa consiglia? Beh, è significativo quello che diceva la nostra amica ascoltatrice, nel senso che ha trovato beneficio dall'assunzione sistematica, periodica, a cicli, di un prodotto che personalmente è detto nome commerciale, ma al di là di quello ne esistono tanti, di integratore di minerali, vitamine, probabilmente anche di piante. Non è vero che non si può fare niente, esistono dei prodotti di validata efficacia appartenenti sia al regno vegetale che ai minerali, che alle vitamine, vitamina C, vitamina D, alcuni funghi, alcune piante, che hanno proprio la capacità di promuovere l'attività del sistema immunitario. Quindi è chiaro che servono poco presi quando l'herpes ormai è scoppiato, ma in via preventiva anche a cicli hanno molto molto significato, quindi insieme a tutte le cose dette dal dottor Gargiulo può essere un'integrazione quanto mai opportuna. E arrivano naturalmente i consigli degli ascoltatori di Cuore Denari, che suggeriscono alla nostra ascoltatrice tanto magnesio, come perché ha funzionato nel caso di un'altra ascoltatrice. E per quanto riguarda invece l'aglio, lo sottopongo subito ai nostri esperti. Luca dice che l'aglio a fettine fini in un bicchiere d'acqua si deglutisce senza masticare e l'alito è ok. Funziona ugualmente? Per funzionare funziona, che l'alito sia ok, se l'ha verificato lui mi stupisce, ma comunque mi fa piacere. L'importante è verificare poi quando si va in bagno che tutto abbia funzionato a dovere, nel senso che poi deve essere anche digerito efficacemente. La masticazione ha un significato nell'utilizzo dell'aglio. Infatti, a proposito di sonno, dottor Avoledo, il dottor Gargiulo ha detto che è fondamentale. Infatti sì. Noi quando magari si dorme male per un paio di giorni ci sentiamo tutto, diventa tutto più difficile. Non è facile dormire bene, non si riesce a dormire bene da un giorno all'altro, magari assumendo erbe o integratori, ma qualche indicazione possiamo darla. Certamente oggi, soprattutto sì. Magari un consiglio, arrivano le vacanze di Natale, si può provare a rimettersi un pochino in sesto, magari cercando di anticipare, se si può, magari l'ora in cui si va a dormire, soprattutto se la sera prima abbiamo fatto tardi. Molto giusto, regolarizzare il sonno non è mai una cosa facile, soprattutto se ci si vuole rivolgere ai rimedi naturali, però esistono delle piante anche qua di dimostrata validità, alcune che facilitano l'addormentamento, come le scolzie al papavero della California, una specie molto simile al nostro papavero ma dai fiori gialli, è un ipno inducente molto interessante. Tutte queste piante possono essere assunte sia in forma di tisana, ma molto più frequentemente anche sotto forma di compresse o capsule facili da prendere, anche con principi attivi più concentrati, oppure una serie di piante come la passiflora, il biancospino, la valeriana, tutte piante che oltre a essere sedative, quindi inducenti sonno, mitigano anche gli effetti dello stress che magari in questo periodo tra lavoro, figli, regali, il Natale che arriva, il Natale è una delle fonti più elevate di stress. I panettoni che ci inseguono. Ecco, lo stress che è un altro fattore di indebolimento delle difese immunitarie. Piante di questo tipo aiutano a migliorare il sonno e anche a modulare la nostra risposta immune. Ho imparato una parola nuova oggi: ipnoinducente. Vedi, è anche bella, vedi? È che proprio bella, posso dire. Infatti. Bella. Allora, adesso direi di passare dalla teoria alla pratica. La formula l'abbiamo data, ma adesso proviamo a dare un voto al nostro sistema immunitario. Vi basta un colpo di freddo per trovarvi alle prese con tosse e raffreddore? Avete spesso cali di voce, raucedine? Nel weekend, come si dice, le pagate tutte perché vi sentite tutti rotti, viene mal di testa, sentite tutte le articolazioni che scricchiolano e sono dolenti? Chiamateci, anche se questo profilo non calza a voi, ma magari a un vostro familiare. Dottor Gargiulo, siamo circondati, eh? Negli uffici, nelle classi, si contano i banchi e le scrivanie vuote. Si è preso l'influenza, ma il retropensiero, e speriamo che non me l'abbia attaccata. Che cosa possiamo fare per evitare di prenderci l'influenza quando tutti intorno tossiscono e starnutiscono? Oltre che affidarci alla buona educazione di chi starnutisce, che dovrebbe, no, starnutire con il fazzoletto davanti al naso e alla bocca. Esatto, quella è la prima regola, perché chiaramente i virus vengono espulsi velocemente e vengono espulsi anche a una distanza discreta, intorno ai, fino ai 5 metri possono arrivare di distanza, quindi al tenersi un po' più distanti da chi è affetto da raffreddore e chi presenta questi sintomi da raffreddamento è senz'altro una buona norma. L'altra buona norma è quella di lavarsi spessissimo le mani. Questo perché il virus noi lo prendiamo generalmente toccando superfici contaminate e portando le mani al naso o alla bocca, quindi è un'abitudine che abbiamo tutti ovviamente prima o poi di toccarci il naso o la bocca, e allora laviamo spesso le mani e magari usiamo anche uno di questi gel disinfettanti, soprattutto scendendo da una metropolitana affollata dove siamo stati, o da un autobus dove siamo stati costretti a sostenerci agli appoggi e quindi a toccare aree che potrebbero essere contaminate, ma anche in ufficio, e anche magari pulire la superficie del nostro tavolo ogni tanto non sarebbe una cattiva idea, perché così anche portiamo via, cerchiamo di eliminare tutto ciò che di fisico rimane e contiene virus che potrebbero contaminarci. Ancora, l'accortezza dovrebbe essere anche quella di stare a casa quando si ha una forma di raffreddamento, perché in inverno aumentano proprio perché stiamo tutti concentrati all'interno di ambienti chiusi. E quindi l'ultimo consiglio, areate gli ambienti, ogni tanto far entrare dell'aria fredda che pulisca un po' l'aria, che pulisca l'ambiente, non è dannoso assolutamente, anzi serve a eliminare residui e particelle sospese che vengono portate fuori dalla stanza. Allora, restate, consigli per chi l'influenza ce l'ha, per chi teme di riprenderla e per chi fa fatica a tirarsi su, i consigli dei nostri esperti per tornare presto, o non so se proprio presto, con il tempo che ci vuole, in gamba. Cuore e denari. Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po'. Dobbiamo distrarci un po' dalle cattive nuove che porterà il 2015, novità, cara Nicoletta, non proprio belle per i nostri purtroppo denari. Quante puntate dovremo fare di Cuore e Denari per alleggerire un po' il clima su queste novità? Le faremo. Le cattive notizie riguardano quelle di cui parliamo stamattina, in particolar modo le partite IVA, perché dal prossimo gennaio scatta il nuovo regime dei minimi, che in parte cancella tutta una serie di benefici di cui fino ad ora hanno goduto i soggetti che vi hanno aderito. Fino adesso si è parlato di un aumento secco dal 5 al 15% dell'imposta sostitutiva complessiva. Dai giornali di stamattina leggiamo che in realtà l'esecutivo potrebbe decidere per un aumento un po' meno consistente, speriamo. Voi intanto raccontateci se siete contribuenti minimi, se avete preso visione delle novità che entreranno in vigore da gennaio. 800 24 00 24 per le vostre telefonate. Ogni stagione ha i suoi pregi e i suoi ricoveri. Lo dimostrano, numeri alla mano, i ricercatori americani che, basandosi su registri medici e bollettini meteo, hanno misurato l'effetto delle variazioni climatiche sulle ammissioni in ospedale. Secondo lo studio pubblicato dall'Emergency Medicine Journal, per ogni 5 gradi di diminuzione della temperatura, i ricoveri degli adulti crescono del 3%, mentre una nevicata li fa balzare del 10%. Ma se il freddo è una minaccia per gli adulti, i piccoli devono fare i conti con il caldo. La ricerca dimostra che per ogni 5 gradi in più di temperatura massima, il numero dei bambini ricoverati cresce del 10%. Insomma, cara Debora, ogni stagione i suoi acciacchi, noi oggi ci stiamo occupando di quelli invernali, e dato che molti di voi hanno raccolto il nostro invito a chiamarci per suggerirci i vostri rimedi, io direi, se voi siete d'accordo, di candidarvi all'800 24 00 24, diteci e dateci il vostro rimedio, lo sottoporremo al giudizio insindacabile del dottor Carlo Gargiulo e il dottor Avoledo, se funziona vi arriva il libro a casa, se non funziona il dottor Avoledo medico, il dottor Carlo Gargiulo, vi suggeriranno un rimedio alternativo. Abbiamo visto che non è sempre colpa e solo del freddo, come ci ha spiegato il dottor Carlo Gargiulo, infatti bisognerebbe aerare un po' i locali. E Andrea ci scrive: ed è il primo suggerimento che voglio sottoporvi, io non metto mai il cappotto, felpa e via, esce così. Mi smentirete di certo, ma io sono convinto che fortifichi a meno di temperature sotto lo zero. Io vado tranquillo, non mi ammalo mai. Tutto sta nella testa. Se uno si fa sopraffare da sciarpe, cappottoni, guanti e corredo vario, il raffreddore è lì che lo aspetta al varco. Questo ci scrive Andrea. Si merita un libro o un consiglio alternativo? Lo chiediamo al dottor Carlo Gargiulo. No, il libro se lo merita, perché secondo me ha ragione quando dice che coprendosi troppo il rischio di sudare, il rischio di quindi esporsi allo sbalzo di temperatura che può succedere levando magari il cappotto può provocare più danni e più fastidi, anche quelli sciarpone che noi mettiamo tante volte possono creare più problemi che vantaggi. È chiaro che poi il freddo è una questione anche molto soggettiva, noi parliamo sempre di temperature percepite quando sentiamo il meteo, quindi evidentemente noi dobbiamo fare i conti con noi stessi, per cui non consiglio di spogliarsi a chi è freddoloso, ma consiglio di avere sempre comunque addosso dei vestiti che possano essere messi sempre a sfoglia di cipolla, perché poi si passa da ambienti caldissimi, quali sono quelli in cui lavoriamo, magari a un ambiente più freddo. Non è il freddo in sé, ma è lo sbalzo di temperatura che fa male. Sì, devo dire, allora, il libro per Andrea, e metteremo anche la foto del dottor Avoledo che è in studio da noi in maglietta. Sbracciatissimo. Sbracciatissimo. Ma perché noi qui dentro abbiamo più o meno un ambiente tropicale, direi. Allora, c'è il nostro ascoltatore da Londra. Sì, guarda, esatto, Alistair è un nostro carissimo ascoltatore che ci segue da Londra, ci scrive spesso. Questa mattina deve darci la sua ricetta per combattere l'herpes, perché gli risulta che proprio un anno fa nel nostro programma, Nicoletta, io non lo ricordo, forse non facevamo ancora Cuore Denari, ci dobbiamo far dare qualche cosa per il po' di fosforo, dobbiamo per farci vedere da qualcuno di bravo. Pare che un anno fa avessimo suggerito di provare le pasticche di lisina per evitare l'herpes. Lui dice che la usa e funziona. Adesso ha uno scoppio di herpes sulle labbra due volte all'anno invece che ogni mese. Intanto lo salutiamo perché lui carinissimo ci scrive sempre da Londra. E poi adesso, che cos'è la lisina? Allora, la lisina è un aminoacido. Dottora Valente, è stato lei il colpevole? No, non mi pare. Vabbè, però comunque è l'indicazione giusta. È un aminoacido che è presente anche in tanti cibi e può essere utilizzato anche come integratore ed ha un'efficacia anti-herpes, a differenza di un altro aminoacido che è l'arginina, che invece può facilitarne la comparsa. Quindi è un'indicazione senz'altro giusta quella del nostro amico. Dove lo troviamo? Londinese. Dove la troviamo? Si trova in alcuni integratori, anche in alcuni farmaci, in farmacia. Quindi non negli alimenti. E anche in alcuni alimenti. Davvero è abbastanza ubiquitaria, quindi si trova soprattutto nella carne, in altri cibi ricchi di proteine, perché comunque è un aminoacido. Allora, cassola, non so dirlo in milanese, os bus e un bicchiere di vino rosso, questa è la ricetta di Giorgio da Milano. Dottor Gargiulo, lei che cosa avrebbe? Niente libro per il vino rosso, ai ai ai. Neanche un bicchiere? Allora, il bicchiere ai pasti lo concediamo sempre, ma il vino rosso come rimedio per curare o per combattere o allontanare le malattie del raffreddamento, no, non va bene. L'alcol addirittura provoca degli abbassamenti di temperatura nel nostro corpo, quindi dà quella sensazione immediata di calore e di benessere che poi si traduce in un abbassamento di temperatura, quindi non mi sentirei di consigliarlo a nessuno. Un mezzo libro, dai, un libro piccolo. Solo un paio di capitoli. È Natale. E andiamo a sentire i nostri amici che ci chiamano all'800 24 00 24 per chiederci consigli o suggerirci invece i loro rimedi per fortificare il sistema immunitario e non finire a letto nelle vacanze di Natale. No, per carità. Aldo dalla provincia di Frosinone, ben arrivato. Grazie, buongiorno. Buongiorno. Allora, volevo un consiglio più che altro, una spiegazione. Io vado in piscina e da 2 anni a questa parte più o meno, puntualmente tutte le sere dopo che sono stato in piscina mi viene sto raffreddore, mi dura la nottata, in mattinata già è passato. Sì. Però non riesco a spiegare perché sto fatto, tutte le volte, nonostante prendo tutte le precauzioni di non prendere il freddo tutto d'un colpo quando esco fuori, però succede questo. Però ho sentito anche altri che vengono in piscina che e hanno il suo stesso problema. Io azzarderei una cosa, ma vorrei che anche Deborah, mi sembra sia sulla mia. Siccome è capitato stessa, anche a me, vero? Però abbiamo il dottor Gargiulo, non possiamo fare i balanzoni. Dottor Gargiulo, io un'idea Uzza ce l'avrei, però vada lei. Tanto un raffreddore che dura una notte non è un raffreddore, non è da raffreddamento, ma è legato ad altri fattori, fattori chimici o fisici che possono condizionare il nostro, la mucosa nasale. Quindi il cloro, ad esempio, una piscina molto clorata può determinare un fastidio sulle mucose nasali che si traduce in un raffreddore degli starnuti. L'altra cosa potrebbe essere che le immersioni, cioè scendendo sott'acqua, l'acqua della piscina entri nel naso e si muova all'interno di questo naso e si vada ad accumulare. Se c'è un pochino di sinusite, magari un fatto sinusitico leggero, ecco che questo può smuovere un po' di muco e questo muco lo ritroviamo nel naso sotto forma di una di starnuti, ma non è un raffreddore. Azzardo, dei lavaggi nasali potrebbero aiutare il nostro amico, naturalmente dopo la piscina, a non avere il problema del raffreddore notturno? Potrebbero aiutare dei lavaggi nasali, perché potrebbero eliminare quest'acqua clorata sostituendola con magari con un'acqua, una soluzione fisiologica o l'acqua di mare che si utilizza per questi lavaggi, che andrebbe bene. Ci faccia sapere, gli facciamo fare un po' da cavia. E intanto andiamo a Paolo, che ci chiama dalla provincia di Vicenza. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. Volevo dire il rimedio che io adotto da un po' di anni. Ho due figlie. Vorrebbe avere un libruccio, vero Paolo? No, è sempre gradito un regalo in questo periodo, visto che ma noi glielo facciamo volentieri. Il rimedio che adotto da un po' di anni a parte è quello di sostituire lo zucchero con il miele alla mattina nella colazione. E ho notato che da quando adoperiamo questo metodo le figlie si ammalano meno durante i periodi di cambi di stagione. Frequentando la scuola sovente capitava che prendevano raffreddore, ritorsi, eccetera. Invece con questo metodo sono diminuiti considerevole gli episodi di malattia, insomma. Ecco, non so se c'è una correlazione, non ho cambiato nessun altro tipo di stile di vita. Potrebbe essere il miele, di cui va ghiotta anche Deborah, che piace anche molto a me, ma anche a Laura Vanossi. Noi di Cuore Denari siamo devo molto dal miele. Sì. Dottora Voledo, miele tra l'altro ce ne sono diverse tipi, qualità. Ognuno... Castagno, eucalipto, arancia, ma per parlare solamente di quelli che il dottor Voledo ci ha regalato. Eccolo là. Il miele è un alimento prezioso, pregiato, ricchissimo non solo di sostanze che dolcificano e quindi può essere utilizzato al posto dello zucchero, ma è un vero e proprio prodotto vivo, un prodotto dell'alveare con enzimi, vitamine, minerali e appunto a seconda delle piante da cui è ricavato può avere specifiche proprietà, per esempio pensiamo appunto al miele di eucalipto o addirittura questi mieli che vanno molto di moda adesso, ce n'è uno, lo possiamo suggerire al nostro ascoltatore, si chiama miele di manuka, arriva dalla Nuova Zelanda, sta facendo degli studi interessanti. Costa come una fucilata, ma è meraviglioso per stimolare il sistema immunitario, utilizzarlo per quindi tenere deste le difese. Ma soprattutto cos'è la manuka? La manuka è una pianta, Leptospermum scoparium, che arriva dalla Nuova Zelanda. No, come si chiama? Leptospermum scoparium. Basta così. Che arriva dalla Nuova Zelanda. Comunque, e costa parecchio. Costa davvero tanto, a seconda del contenuto in principi attivi. Adesso Deborah si sta ammazzando di risate. Fammi fare i conti. Adesso noi parleremo con Giovanni Parenti. Non ridiamo più. Facciamolo entrare, sentiamo se è un consumatore abituale di miele, ma lui, per come ci addolcisce le pillole fiscali, direi che ne consuma è uno parecchio. Zuccherino. Altro che. Allora, noi la prima parte di Cuore Denari termina qui. Grazie per essere stato con noi, al dottor Carlo Gargiulo, a cui auguriamo naturalmente un Natale sereno, strepitoso, bello, con le persone che ama. Grazie dottor Gargiulo. Grazie. E poi li dobbiamo reinvitare per la famosa Remise in Form. Assolutamente, quella lì è quella tosta. E grazie al dottor Avoledo, che continueremo a leggere sul suo blog, ma anche sul nostro Daily Lab. Senz'altro, grazie, arrivederci. A prestissimo. Grazie. Cuore e denari. Siamo pronti! Perché non siamo un banco dell'Inps! Siamo pronti! Perché siamo contribuenti di serie A, ma cittadini di serie B! Siamo pronti! Perché il 33% ci farà fuggire dalla gestione separata! decine di freelance a Milano, ma anche a Roma, Firenze, Palermo si sono unite il 4 dicembre scorso per protestare contro l'aumento dell'aliquota contributiva alla gestione separata IMS, che in 4 anni passerà dall'attuale 27% al 33%, una decisione già passata alla Camera senza emendamenti. Secondo l'Osservatorio dei lavoratori ci sono 1.700.000 persone iscritte alla gestione separata, una massa inafferrabile che non si vede spesso in piazza e che raccoglie categorie disparate e divise a compartimenti stagni. Non sono solo professionisti, ma anche lavoratori subordinati camuffati da lavoratori autonomi, tema che conosciamo bene. Oggi parliamo in generale del popolo delle partite IVA, ma in particolare di quei professionisti che sono magari all'inizio della professione e che fino ad ora, per stimolare anche la loro libera iniziativa, hanno potuto beneficiare di un regime fiscale agevolato, il cosiddetto regime dei minimi, cioè nell'imposta sostitutiva unica del 5% forfettario che dovevano versare appunto i contribuenti aderenti a questo sistema. Perché parliamo al passato? Mi chiederai, ma io so. Ecco, perché arriva la fucilata, come l'ha chiamata prima il dottor Avoleto, del 1 gennaio. Questa percentuale cambia e aumenta di parecchio, letteralmente triplica. Il forfè sarà del 15%. Un aggravio fiscale che naturalmente ha fatto balzare tutti sulla sedia, tutti gli attuali beneficiari di questo regime agevolato, e chiaramente andrà anche a scoraggiare, almeno lo immaginiamo noi. Sì, certo. Insomma, ci si pensa. Ecco. Chi era intenzionato ad intraprendere un'attività imprenditoriale autonoma e adesso si troverà a fare bene un calcolo di convenienza. Giovanni Parente, il Sole 24 Ore, portate il miele. Sì, perché ogni volta mi invitate devo dare brutte notizie, quindi... Qual è il tuo preferito piuttosto? Ne consumi? Sì, a me piace molto il miele d'acacia, non so se è giusto o sbagliato. Credo che sia tra i più anche consumati e diffusi. Ci ricorda però un nostro ascoltatore di sottolineare che deve essere miele italiano. E quindi noi siamo totalmente d'accordo. Però il dottore Avoleda ha fatto questo volo insomma australiano, perché quello è un miele particolare, ma insomma non credo che tutti avremmo intenzione di comprarlo, detto che costa 80 euro a barattolo, per cui. Ma insomma lasciamo il miele e andiamo invece a queste ben poco dolci novità fiscali. Saluto e ringrazio anche per essere con noi Claudio Carpentieri, responsabile delle politiche fiscali della CNA, la Confederazione Nazionale dell'Artigianato. Benvenuto. Grazie dell'invito. Grazie. Buongiorno. A lei. Allora, naturalmente numero verde per gli ascoltatori 800 24 00 24, per tutte le vostre domande sull'argomento di denari di oggi. Siete contribuenti minimi, avete preso visione delle novità che entreranno in vigore da gennaio. Come vi colpirà questa rimodulazione fiscale? 349 238 6666, se invece di chiamarci volete scriverci. Allora Giovanni, abbiamo sentito della protesta dei freelance contro l'aumento dell'aliquota per la gestione separata IMS. È un aumento che riguarda anche chi è nel regime dei minimi? Sì, chi, per quanto riguarda chi esercita un'attività non professionale, cioè non è iscritto a delle casse professionali, quindi insomma sostanzialmente chi è iscritto a gestione separata IMS comunque dovrà fare i conti anche con questa situazione. Quindi già diciamo non è piacevole dire che in qualche modo avrai un aggravio fiscale, devi fare i conti anche con contributi in più da versare. Sicuramente la situazione non è facile, anche perché li chiamiamo minimi perché essenzialmente sono situazioni abbastanza marginali, nel senso che hanno redditi bassi e quindi hanno avuto un trattamento di vantaggio, perché essenzialmente il fisco ha deciso, il legislatore prima e poi insomma l'amministrazione finanziaria hanno deciso di riservare una percentuale fiscale più bassa per consentirgli di crescere e di svilupparsi nei primi anni di vita. Ecco, ma questa non è la sola agevolazione fiscale che c'è in tutto il trattamento per i contribuenti minimi. Quali sono le altre agevolazioni, perché ci sono anche delle semplificazioni, no, per chi opera in questo regime? Ci puoi fare una sintesi un po' del profilo del contribuente minimo? Allora, facciamo il punto adesso il contribuente minimo, chi non ha più di 30.000 euro di ricavi o compensi, perché i compensi sono quelli dei professionisti essenzialmente, all'anno, non acquista beni strumentali, cioè anche l'arredamento dell'ufficio, computer per più di 15.000 euro nel triennio, ed ha appunto usufruisce di una tassazione agevolata al 5%, e dal 2012 questo regime è stato già modificato prevedendo che essenzialmente dovesse essere svolta una nuova attività rispetto a quella precedente, cercando in qualche modo di limitare l'accesso al regime a quei fenomeni di falsa partita IVA, cioè che in realtà chi lavora come dipendente, ma ha un trattamento a partita IVA. Ecco, questo era il tentativo che era stato fatto in una manovra estiva del 2011 con decorrenza al 1 gennaio 2012. Questi sono i tre cardini che in qualche modo determinano il regime. Come dicevi giustamente tu, Deborah, non c'è soltanto una semplificazione da un punto di vista fiscale, ma ce ne sono di prelievo fiscale, ma ce ne sono altre a livello di adempimenti. Ad esempio, una cosa molto rognosa per chi ha una partita IVA è quella questione degli studi di settore, perché è un altro adempimento da fare insieme al modello unico, perché ci sono tutta una serie di parametri che devono combaciare, altrimenti sono state anche inasprite negli ultimi anni. Le sanzioni per se i dati non sono coincidenti, se si dichiara non perfettamente quell'importo, e quindi insomma questo è un esonero. Ci sono tanti altri esoneri, per esempio abbiamo parlato varie volte qui da voi di spesometro. I contribuenti minimi non sono obbligati allo spesometro, questo è un altro vantaggio, né a tutta una serie di adempimenti che sono stati introdotti negli ultimi anni per appunto la lotta all'evasione. Certo, però insomma tutto questo sta un po' cambiando, quantomeno il cardine del cambiamento che arriverà dal 1 gennaio è, a prescindere da tutte le semplificazioni che ci ha indicato, proprio il prelievo fiscale, che dal 5% passerebbe di secco al 15%, forse un po' meno, dice stamattina il Corriere della Sera, non indicando nessuna nuova percentuale, ma dice semplicemente che l'esecutivo potrebbe prelevare un po' meno, insomma, adesso io banalizzo, però... Esattamente, ci stanno lavorando, anche noi l'abbiamo scritto negli ultimi giorni, è una questione di far limare i conti, perché ovviamente questo cambiamento è stato fatto nell'ottica comunque di garantire un certo gettito allo Stato negli anni a venire. E, l'ipotesi su cui si sta lavorando è, ecco, appunto, o un'aliquota differenziata a seconda di fasce di reddito, quindi insomma non andare di secco subito al 15, oppure rimodificare le soglie, che sono l'altra grande novità di questa del regime che si chiamerà che è stato chiamato forfettizzato, tanto per dare un altro termine molto complicato. Cioè, vale a dire, adesso, come indicavo prima, c'è una soglia unica a tutti di 30.000 euro ricavi o compensi l'anno. Dal prossimo anno le soglie cambieranno e quindi saranno variabili, certo, a seconda del tipo di attività svolta. Se uno guadagna 15.000 magari rimane il 5%, se uno guadagna il 25.000 potrebbe diventare il 10%. Faccio degli esempi, diciamo, del tutto che aleatori. Non dare dei suggerimenti. Ho dato i numeri, tu l'hai fatta all'inizio, io ne do altri. Diciamo che c'è una bella tabellina legata alla legge di stabilità che ti dice sia qual è la tua soglia massima di ricavi che puoi avere per restare nel nuovo regime, sia qual è, attenzione, questa è la grande novità, il tuo coefficiente di redditività, tanto per introdurre un'altra parola difficile, però la spieghiamo subito. Sostanzialmente hai 30 secondi di tempo. Il reddito non si determinerà più con ricavi e costi, tanto per intenderci, ma ai ricavi si applicherà una percentuale. Quella sarà la tua percentuale che ti darà il reddito. La formuletta magica. Carpentieri, devo rimandarla, non perché l'abbiamo bocciata naturalmente, ma per farla spiegare bene qual è la posizione della CNA su tutto questo dopo il giornale radio. Ha qualche minuto di pazienza? Certo. Cuore e denari. Tasse! Tasse! Bellissime, adorabili tasse! Sire, voi siete bravissimo a convincere i poveri a farvi omaggio dei loro risparmi. Per coniare una frase, mio caro consigliere, ruba al povero per sfamare il ricco! Questa è buona! Sì! Clima natalizio, abbiamo scomodato Robin Hood, naturalmente, altro che togliere ai ricchi per dare ai poveri. Te lo ricordi chi diceva che le tasse sono una cosa bellissima? Sì. Mi ricordo, però, quando le tasse le devi pagare i soci. Ma Padoa-Schioppa saranno colpiti da un aumento? Anche i professionisti più piccoli, ne parlavamo prima del giornale radio, se così possiamo chiamarli. Oggi nella parte dedicata ai denari stiamo parlando di questo non tanto gradito regalo di Natale, anzi di Capodanno, che il fisco porta ai lavoratori autonomi, ai piccoli professionisti, partite IVA che fino ad oggi hanno beneficiato della cosiddetta tassazione forfettaria agevolata al 5%, ricadendo nel cosiddetto regime dei minimi. Arriva dal 1 gennaio questo nuovo regime che porta ad un prelievo fiscale più pesante per per piccole e piccolissime imprese, anche se ancora la percentuale non è stata ben identificata e quantificata. Noi stiamo cercando di farci un'idea sugli effetti e la portata di questa novità fiscale. Abbiamo sentito prima Giovanni Parente del Sole 24 Ore, adesso vorrei sentire Claudio Carpentieri, responsabile della fiscalità per la CNA, la Confederazione Nazionale degli Artigiani, perché proprio la CNA sta portando avanti un lavoro di simulazione, no? Diciamo così, e chiaramente non ne siamo tanto sorpresi, Carpentieri, i vantaggi assicurati a tante piccole imprese e professionisti dalla semplificazione degli adempimenti verranno azzerati un po' da questa nuova tassazione sostitutiva che al momento sappiamo è fissata al 15% dal 5%. Che cosa state scoprendo appunto con i vostri, chiamiamoli così, giochi di simulazione e ricostruzione? Così, la nostra prima preoccupazione è stata proprio quella di analizzare per determinati scaglioni di ricavi quanto uno di tributi andava a pagare in più o in meno, e la scoperta di calcoli veri, fatti no, su ipotesi concrete, è che ad esempio se un soggetto che fa commercio ambulante di altri prodotti dichiara 20.000 euro di ricavi, pagherà 855 euro in più di tributi. Aderendo al regime, rispetto non al vecchio 5%, ma rispetto all'ordinario, cioè se lui rimane nella tassazione ordinaria pagherebbe 855 euro in meno rispetto all'entrata in questo nuovo regime. Incredibile. E allora, per cui ho detto bene prima quando dicevo che tutto sommato per chi sta in questo regime adesso deve rifare un po' dei calcoli di convenienza per capire se gli conviene, se può considerare ancora agevolata la nuova fiscalità. Assolutamente. Io però devo sottolineare una cosa, perché una cosa positiva c'è, è che mentre il vecchio, diciamo così, in cui rendeva applicabile il 5%, si applicava solo alle nuove iniziative produttive, no? Anche se poi fino a 35esimo anno di età, questo qui si applica a tutti, anche uno che è in attività da 20 anni, da 15 anni. Che può modificare, cioè può decidere di passare dalla tassazione ordinaria a quella agevolata. Perfetto, quindi non è una cosa che investe solamente quelli che prima applicavano il 5, ma investirà anche quelli che adesso non possono applicare il 5 perché non hanno iniziato una nuova attività. Da questo punto di vista è positivo. Ecco perché poi noi abbiamo fatto il confronto con la tassazione ordinaria, no? Che è quella che applicano purtroppo tanti. Ma siccome chi sta in ordinario ha una franchigia IRAP, ha delle detrazioni, la tassazione effettiva per bassi redditi è sotto al 15%. Ecco perché, che cosa secondo noi occorre fare? Abbassare l'aliquota, aumentare le soglie di accesso al regime, aumentarle, perché adesso arrivano, c'è un range da 15.000 che sostanzialmente prende solo le false partite IVA, ne parlavate voi prima, fino a 40.000. Secondo noi almeno bisogna arrivare da 25 a 55, differenziando ovviamente in modo coerente le diverse attività. Certo. Poi questo ci spiegava prima Giovanni Parente che c'è una situazione differenziata anche a seconda del settore economico, diciamo, di appartenenza, però prima di parlarne io darei, Nicoletta, se sei d'accordo, io direi la parola di agli ascoltatori. Iniziamo subito da Stefania, che ci chiama dalla provincia di Genova. Buongiorno Stefania e benvenuta. Buongiorno, grazie per avermi richiamata. Io ho un figlio che si è laureato in scienze infermieristiche da poco, ovviamente non avendo concorsi ha aperto una partita IVA e l'ha aperta a dicembre. Volevo sapere se questo per poter eventualmente fatturare quelle che sono eventuali richieste. Volevo sapere se a queste, avendola aperta alla fine dell'anno, prenderà automaticamente il nuovo regime o cosa? È una domandona, come dire, potrebbe essere uno dei nostri quizzettoni. Carpentieri, si candida lei a rispondere, che sento che ci dica. Perché ecco, può stare tranquilla, perché il figlio può benissimo applicare fino a che non compie il 35esimo anno di età, spero per lui che sia più giovane. Esatto, no, perché infatti ci chiedevano anche 100%. Se ci fosse un limite anagrafico, diciamo, alla posizione. Se uno ha 40 anni ce l'ha solo per 5 anni, quello vecchio sto parlando, no? Che è garantito comunque l'applicazione per quelli che aprono a dicembre. Se invece è inferiore a un'età inferiore a 35 anni, può comunque garantirselo fino al compimento del 35esimo anno d'età, quindi per un po' di tempo è tranquillo e applicherà il 5%. Quindi se ha un'età inferiore ai 35 può aprire appunto la partita IVA posizionandosi, diciamo, nell'ambito dei contribuenti minimi, e può mantenere questa situazione di agevolazioni fiscali e semplificazioni fino a quando non avrà 35 anni. Diciamo, se ha 20 anni, per 15 anni è al 5%. Benissimo. Gli conviene però appunto sbrigarsi, no, a farlo, Carpentieri, perché altrimenti da gennaio comunque qualcosa va a cambiare. Assolutamente, anzi, da analisi fatte dal Sole 24 Ore qualche giorno fa, quindi sto parlando della casa vostra, è proprio stato evidenziato che c'è vostra. Un picco di aperture di partite IVA subito dopo l'emanazione del DDL di legge di stabilità, che evidentemente sono quelli che vogliono prendere il chip per garantirsi il 5% fino a che, no? Certo. Non arrivino al 35 anni di età. E queste dire qualcosa sì. sulle coperture? Un attimo, vogliamo sì. prima sentire Paolo Carpentieri, perché queste informazioni gli saranno sicuramente state utili. Paolo, buongiorno, ci racconti la sua storia, il suo dubbio. Buongiorno, salve, io sono Paolo, chiamo da Padova. Carpentieri ha risposto praticamente a tutte le mie domande in quest'ultimo intervento. Quanti anni ha Paolo? Io ho 30 anni, ne faccio 31 il 28 dicembre e quindi sono perfettamente in tempo per aprire la mia partita IVA agevolata al 5%. E appunto quello che non si riusciva a capire era se bisogna fare in fretta e chiudere aprire questa partita IVA entro il 31 del 12, oppure si poteva tranquillamente aspettare gennaio, ma mi pare di capire che chi ha tempo non aspetti fretta. Tempo. Tra l'altro, Paolo, in che settore lavora? Quindi la lavoro sua... nella comunicazione, pubblicità, siti internet. E queste cosette qui. No, gli ho fatto appunto anche spiegare un po' il settore in cui lavora, perché dicevo prima, no, Giovanni, che come dire, il regime dei minimi ci presenta anche una condizione di grande eterogeneità a seconda dei settori economici di appartenenza. Perché? Sì, perché nel senso è chiaro che la maggior parte riguarda gli autonomi, no? Quelli che chiamiamo autonomi sono chi ha un reddito professionale, ma di varia estrazione. Però ci sono anche tantissime mini imprese, chi si è aperto la propria piccola ditta, che commercia su internet magari, che fa anche attività di consulenza, quindi insomma... Però dalle statistiche fiscali ci dicono che essenzialmente sono molti di più i professionisti che hanno avuto accesso a questo regime, ma era immaginabile perché insomma magari acquisisco l'accesso a un ordine o a una professione e mi metto in proprio, e nei primi anni so di guadagnare molto poco e quindi cerco di sfruttare al massimo il vantaggio fiscale. Una sola cosa: chi apre la partita IVA entro il 31 dicembre, quindi insomma sbrigatevi perché poi ci sono i giorni festivi di mezzo, quindi Ricordate, tutti chiusi. Ricordatevi sulla dichiarazione inizio attività di scegliere il regime dei minimi, perché è fondamentale. Adesso faremo anche l'ABC della cosiddetta istruttoria per l'apertura di una partita IVA secondo questi criteri. 800 24 00 24, il numero verde per naturalmente tutte le vostre domande. Carpentieri voleva aggiungere qualcosa a proposito, come dire, delle coperture, per eventualmente decidere di fissare una percentuale, un'aliquota un po' più bassa rispetto a quella che il governo spiegherebbe del 15% come nuova tassazione appunto agevolata. Ma le chiedo anche, Carpentieri, se ci può raccontare quanti vostri iscritti in questi anni hanno optato per questo regime fiscale agevolato con soddisfazione, insomma, secondo lei mediamente è possibile stabilire se qualcuno, facendo queste valutazioni di convenienza, abbandonerà il regime fiscale agevolato per passare alla tassazione ordinaria? Insomma, in quanti vengono ai vostri sportelli a chiedervi informazioni per tentare di capire cosa fare? Sì, grazie alla domanda. Adesso infatti la confusione regna padrona, perché poi ecco, ci sono situazioni di quelli che hanno il 5% preoccupati perché lo perdono, ci sono quelli che vogliono capire quanto andranno a pagare col 15% rispetto, no, alla tassazione ordinaria, anche situazioni di margine, perché esistono soggetti che hanno degli immobili da vendere e vogliono capire se nel nuovo regime la plusvalenza verrà tassata, perché poi sono diversi, no? E questo lo posso dire, la plusvalenza dopo non verrà tassata, quindi ci sono anche queste situazioni, no, di confine, di scelte individuali che stiamo facendo. Posso dire che la platea in generale verso cui questo nuovo regime è orientato, cioè quelli che hanno quei ricavi sotto quelle soglie, sono circa 900.000, quindi di gente adesso che si sta avvicinando al proprio consulente, alla propria associazione, per capire come meglio fare, ce n'è tanta, e noi siamo ovviamente come gli altri a disposizione per fare le analisi, e le analisi vogliono portare a questo. Perché dico le coperture? perché per avere un vantaggio adesso il soggetto del nuovo regime cosa deve fare? Deve scegliere, sentite bene, di rinunciare a parte della propria pensione, perché i vantaggi veri, quelli che portano a ridurre il prelievo complessivo fiscale, sono sul lato contributivo, perché loro possono ridurre fino al 50% i contributi sul minimale, cioè quindi non pagano sul minimale ma solo su quello che loro effettivamente... Ci può fare un esempio pratico, Carpentieri, per capirlo, prendendo a spunto il caso di Paolo, pubblicitario, che ci ha chiamato prima, vuole aprire appunto velocemente una partita IVA perché vorrebbe chiaramente fissare nero su bianco l'aliquota agevolata al 5%, quella che è attualmente in vigore. A che cosa rinuncia lui pur di mantenere questa fiscalità così incentivante? Ecco, adesso lui pagherà i tributi, ovviamente sostituiti tutto il 5%, però i contributi li pagherà su un reddito su un minimale che è 15.300 euro, quindi anche se lui guadagna 10.000 euro, 8.000 euro, i contributi verranno applicati, quella aliquota contributiva, su 15.300, che per il prossimo anno si pensa pure aumenti. Che questo reddito minimo, cioè lui sulle contributi deve pagare sul reddito, come dire, fittizio, sul reddito ipotetico. Presunto, sì, esatto, potenziale. I forfettari nuovi pagheranno i contributi dall'aliquota loro non su questo reddito minimo, ma la pagheranno sul reddito effettivamente realizzato. Quindi qual è il punto? È che mentre chi sta alla gestione artigiani o commercianti ha un effettivo vantaggio penalizzando la pensione futura, chi è un professionista pagherà il 27 qualcosa, arriverà al 33 senza avere nessuna riduzione sul lato contributivo. Allora come si fa? Abbassiamo l'aliquota, eliminando, quindi portando quei vantaggi sul lato contributivo al lato tributario, e così si omogeneizza anche il prelievo su quelli che adesso non possono rinunciare alla pensione. Questo è il... Io mi inchino a Paolo, veramente, a tutti coloro che hanno in questo momento il coraggio, il pelo sullo stomaco per intraprendere la libera iniziativa imprenditoriale, l'attività autonoma, no, Carpentieri, perché veramente solamente altro che semplificazioni qua, per districarsi in questa giungla c'è bisogno di compiere un atto di coraggio non indifferente. Giovanni? No, è vero quello che diceva Carpentieri, assolutamente, cioè nel senso che il vantaggio che offre è di abbattere i contributi, però se paghi i contributi meno adesso te ne trovi meno in pensione, certo. Questo è il discorso molto semplice sostanzialmente. È pur vero che però obiettivamente Debora, Nicoletta, cioè molti aprono la partita IVA perché il lavoro dipendente non lo trovano, cioè è una strada obbligata questa. E quindi insomma, allora no, esatto, a proposito di questo ragioniamo un po' sulle situazioni che si stanno definendo da qui alla fine dell'anno, no? La situazione come quella di Paolo, che chiaramente per mantenersi questo 5% vuole aprire la partita IVA e lo farà entro il termine del 2014. Carpentieri, ci dice tutti i passaggi che bisogna fare? È davvero semplice insomma intraprendere una iniziativa individualmente, come nel caso del nostro ascoltatore che vuole operare nel campo della pubblicità? Che cosa bisogna fare insomma? Ci dica un po' se questo iter è qualcosa di semplice oppure... Quattro passi insomma per aprire la partita IVA. Ecco, la prima cosa da fare ovviamente è aprire la partita IVA e quindi recarsi presso un professionista, perché se oppure anche potrebbe farlo direttamente. Sì. Se apre un codice PIN, insomma, si accredita presso il CIO dell'Agenzia delle Entrate e ovviamente aprendo la partita IVA specifica l'attività che svolge con il codice Ateco, individua quelli che sono i ricavi presunti che ritiene di fare nell'anno. Mi spiega come fa Paolo a calcolare? Bravo, è questo che mi manca. Come presunti? I famosi studi di settore, cioè lui deve andare a vedere tutti i pubblicitari che operano nella sua provincia, come fa? No, lui pensa, dice, io ritengo che per il primo anno d'attività non supero la soglia previste e quindi opto, come diceva giustamente, scelgo, entro come regime naturale nel regime forfettario. Ma se lui fosse tanto fortunato che ad un certo punto, a maggio, giugno, luglio dell'anno prossimo, gli arrivasse una commessa, un ordine straordinario, lui superasse di due volte quello che è il reddito presunto che ha individuato a dicembre di quest'anno, che cosa gli succede? Che dal prossimo anno o dovrà obbligatoriamente uscire dal regime. Ecco. Il problema è che la cosa particolare è che in tutti i regimi è prevista un'uscita in corso d'anno, cioè se io faccio una fattura in corso d'anno che mi fa uscire da un volume di ricavi ipotetico, le conseguenze già in corso d'anno. Per questo regime sembra, nella versione attuale, che non ci sia questa ipotesi. Quindi lui per il primo anno avrà pure un tot di ricavi e uscirà non per quest'anno, ma dal prossimo anno. Stiamo parlando di quello in arrivo, però, non dei minimi al 5%. No, ma io voglio sapere a Paolo se il lavoro, come noi gli auguriamo, gli andasse a particolarmente bene, naturalmente, e che cosa fa durante l'anno? Cambia in corsa il regime fiscale, va dal commercio. Lui lo cambia in corsa, deve rettificare l'IVA, deve cominciare a fare i versamenti normali, se perché nel vecchio regime, non come quello da adesso, è previsto l'uscita in corso d'anno. Perfetto, oddio. Tra l'altro, no, ma quello che comunque ci colpisce, come se io mi mettessi domani mattina appunto a fare, che ne so, il meccanico, ti immagini, e devo stabilire. No, quello te lo vieterei io, perché ho a cuore la salute degli automobilisti. Con tutte le puntate con assogomma che abbiamo fatto. No, sulle gomme sì, gommista, meccanico ci stiamo allargando troppo. Insomma. Giovanni, ci mancano 3 minuti di tempo. Quali altre questioni abbiamo tenuto fuori fino a questo momento per cercare di fare una micro chiarezza sull'argomento, che è piuttosto complicato? Magari poi prendiamo anche Marco da Novara. Velocemente, ecco, la scelta di aderire al 5% è veramente breve. Speriamo che non ci siano altre modifiche in corso su questa norma, ma a quello che ci risulta dovrebbe essere blindata. No, tra l'altro non ho detto una cosa importante: per chi avesse aderito al regime dei minimi quest'anno e ha il 5%, dall'anno però, cioè lui continua a mantenere il 5%, tutto l'inasprimento fiscale riguarda le nuove aperture di attività. Le nuove aperture nel corso del 2015. Perché ce lo ovviamente. Chiede, esatto, le nuove aliquote sui minimi colpiranno le partite IVA ai minimi aperte nel 2012, un ascoltatore. No, lui continua ad andare avanti col suo regime fiscale agevolatissimo. Se ha le condizioni, se ha ancora i 5 anni o meno di 35, insomma, per poterci restare, e non ha superato i 30.000 euro di ricavi sostanzialmente. Quindi se ha tutti i requisiti. Può restarci. Tra l'altro, mentre prima avevo dato i numeri del benessere, 0, 5, 30. Perfetto. I numeri della partita IVA del regime minimo, quali sono? 5. 5. L'età anagrafica? 35. E il reddito? 30. 30. Vedi? Ecco, visto. C'è questo 30 che torna. È ricorrente. E anche il 5. Marco da Novara, deve essere telegrafico. Pronto, buongiorno. Allora, velocissimamente, la mia questione sarebbe questa. Ingegnere, dipendente, titolare di partita IVA dal 96, iscritto alla cassa degli ingegneri, ma non si Come fa ad essere dipendente ad avere la partita IVA, Marco? Giovanni? Si può svolgere un'attività libera, professionale. Con un unico, diciamo, committente più o meno, cambia qualcosa per Marco? Potrebbe verificare se entra nei forfettari, però magari ne vogliamo parlare. Marco ci scriva, cuoredenari@radio24.it. Nicoletta, abbiamo terminato anche oggi. Sì, abbiamo terminato di dare i numeri, esatto. 0530, 535, 30, vedete voi. Comunque, giochiamocele all'otto che forse è meglio. Carpentieri, grazie per essere stato con noi. Le girerò un po' di mail di alcuni ascoltatori che vogliono qualche dettaglio in più che stamattina non siamo riusciti a dare. Ci sarà con noi? E già ci ha salutato. È andata a giocare i numeri. Esatto. Giovanni, grazie anche a te. A presto. A domani. Giornata, domani.